Certamente voi che venite a messa anche i giorni feriali avete il gusto della preghiera, certamente. Ora io vorrei ancora una volta sottolinearvi qual è la preghiera più bella e più grande, più preziosa. È la liturgia, è la messa. Primo, perché è Gesù stesso che prega. E infatti ogni orazione termina per Cristo nostro Signore. Secondo, perché preghiamo con un affetto particolare il Padre. E il Padre è veramente la sorgente, la fonte di ogni amore, anche dell'amore di Gesù e dello Spirito. Terzo, perché ci troviamo insieme come comunità. È più bello pregare insieme, cantare insieme. Quarto, perché ci uniamo a tutta la Chiesa dell'universo, non solo del mondo, il mondo terrestre, ma anche del mondo celeste e del mondo del purgatorio. Veramente la Chiesa comprende tutte queste realtà, queste anime. E nella messa è la preghiera più ricca perché comprende la parola di Dio, comprende i canti, comprende le antifone all'inizio, alla comunione, così, comprende le orazioni. Per me sono un tesoro inestimabile. E siccome io ho la fortuna, essendo sacerdote, di avere anche il tempo di gustare le orazioni, oggi vi voglio commentare la prima orazione. Quindi se avete il messalino vi pregherei di prenderlo, perché è bello seguire, come a scuola è bello ascoltare l'insegnante, ma è bello se tu hai il libro di testo. Donaci, o Dio onnipotente, di rinnovare con propositi di vita austera il nostro impegno cristiano. Nella lotta contro lo spirito del male, non ci manchi, per tua grazia, il coraggio di rinunce salutari. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Siamo in Quaresima, lunedì di Quaresima, e dunque le orazioni e tutto il clima della liturgia parla di Quaresima. E Quaresima, sappiamo, anche il colore delle vesti del sacerdote lo dice, è un periodo penitenziale. Dunque questa orazione parla di impegno penitenziale. Però vi pregherei di notare che usa delle parole ricche e a mio parere più belle. Poteva parlare di penitenza, poteva parlare di mortificazione e invece dice propositi di vita austera. Certo, la vita austera prevede la penitenza, la mortificazione, però capite che questa parola, vita austera, noi possiamo spenderla anche con i nostri ragazzi, con i nostri giovani. Mentre la parola penitenza, la parola mortificazione, sì, anche loro, però sono parole che capiscono di meno. Parlare di vita austera, puoi inserirla dentro nel mondo, no? Che la nostra società ha bisogno un pochettino più di austerità, non di consumismo. E già possono capirti. Una vita austera. E sotto ti parla ancora il coraggio di rinunce salutari. Anche questo è un termine bello. Salutare parla di salute. E si può spendere ancora questa parola e dire: guarda che la Quaresima ci chiama anche a stare un po' indietro anche nel cibo, che ci fa anche bene al nostro corpo. Amici, noi dobbiamo portare i valori di sempre, ma con una sensibilità anche al giorno d'oggi. Vita austera, rinunce salutari, però vi prego di notare che tutto questo non è solo un nostro sforzo. Quante volte facciamo l'esperienza che facciamo dei propositi e poi non li manteniamo? Allora qui comincia con un verbo, donaci, o Dio Onnipotente. Quindi diciamo, voglio vivere questa vita austera, voglio vivere queste rinunce salutari, ma ti chiedo questo dono, se tu mi fai questo dono ce la faccio. Poi va avanti e dice, non ci manchi per tua grazia il coraggio di rinunce salutari. Ancora, non ci manchi per tua grazia, cioè per tuo dono. Che bello, mi sembra una preghiera completa, in cui siamo chiamati noi a impegnarci con vita austera, con rinunce salutari, ma chiedendo l'aiuto di Dio. Donaci e poi la tua grazia. Io godo nel prendere le orazioni dalla messa, nello scomporle, nel capirle. Se vedete il mio messalino è tutto sottolineato, perché anche a scuola facevo così. E dice, Don, ma noi non abbiamo tutto il tuo tempo, avete ragione, non ve lo chiedo, però vi dico, peccato se una qualche volta ti capitasse di riuscire a farlo, forse mi diresti, Don, grazie che mi hai insegnato a leggere e studiare le orazioni.